Passioni, in altre parole, la dolce vita del traduttore, di Massimo Ortelio. Il sogno di un'esistenza senza vergogna, che non è più possibile rappresentare come contenuto, è custodito dalla passione linguistica. Vale la pena di soffermarsi un momento su questa affermazione di Adorno. Una vita decorosa, dice Adorno, non è possibile. Sembra vero, ogni giorno di più. La vita felice appare come un sogno e chi è pervaso dalla passione letteraria ne è il custode. Dunque, gli scrittori e i traduttori sono parimenti custodi di un sogno. Eppure, i traduttori vivono di luce riflessa, anche quando dimostrano di saper eguagliare gli autori, come la nostra ospite di oggi. Che posso dirvi di Susanna Basso? Mi limiterò a ricordare che è la voce italiana dell'attuale premio Nobel per la letteratura. A proposito, Susanna, come si pronuncia? L'ho scoperto molto tardi perché ho continuato a chiamarla dentro di me Munro per tutto questo tempo, ma so che si dice Alice Munro, esattamente come la grande attrice. Ho sempre pensato che il traduttore è in fondo un artigiano di parola, avvezzo come ogni artigiano a misurarsi con un materiale e una forma, in questo caso la forma linguistica. Prima di amare la traduzione occorre amare la parola. Quando è sbocciata in te la fascinazione per la parola scritta? È molto difficile ricordare quando è sbocciata la passione. Devo dire che la passione è una cosa che è venuta dalla cura del giardino e la cura del giardino è incominciata molto, molto presto. È incominciata quando forse ho deciso di fare il liceo classico a 14 anni, quando ho cominciato molto faticosamente a curare un giardino ostile e ostico come quello del greco e del latino. E poi ho avuto la fortuna strana di finire per un anno in Minnesota, negli Stati Uniti, per una borsa di studio. Dico la fortuna strana perché è stato un anno molto difficile, è un anno che mi ha dato moltissimi problemi, ma che non ho mai rimpianto dopo, perché da lì sono nate le mie vere passioni. Forse in quella sofferenza adolescenziale ho maturato la mia passione futura. Poi, se si è fortunati, la passione diventa professione. Come è successo nel tuo caso? Se si è fortunati è proprio detto giusto, nel senso che io ho studiato a Torino, all'Università di Torino. Allora i corsi di letteratura americana erano tenuti da Barbara Lanati e insieme a Barbara Lanati ho cominciato a tradurre per i corsi universitari, per un seminario universitario, il primo forse, almeno a Torino senz'altro il primo, da lei ideato. E in seguito a questo seminario ho avuto il primo lavoro che mi ha offerto, per l'appunto, Barbara Lanati, per la casa editrice La Rosa di Torino, di Edda Melon, e ho avuto la fortuna di tradurre l'epistolario delle sorelle Bronte, naturalmente pesantemente rivisto da Barbara Lanati, perché le mie sorelle Bronte parlavano come delle adolescenti anni 80, ma di lì è cominciata la possibilità di lavorare a questo mestiere che poi ho fatto da allora. Uno dei pregi di questo mestiere, esulando un attimo dagli aspetti prettamente linguistici, è che ti costringe a confrontarti con l'altro, con una mentalità diversa, spesso anche molto diversa dalla tua. Come lo vivi questo ruolo di mediatrice di mentalità? Ma devo dire che lo vivo bene, nel senso che non ho mai pensato, per esempio, che il mio lavoro riuscisse meglio laddove mi paresse di sentire una maggiore affinità. Ci sono autori con i quali ovviamente sento una maggiore affinità, ma non necessariamente, o non credo che la qualità del mio lavoro passi attraverso l'affinità. Quindi lo vivo come parte del servizio che rendo. Ci sono autori che ho tradotto con molta fatica. Uno di questi è Martin Amis, perché è difficile, perché ha uno stile fortissimo, perché ha una lingua splendida, brillante, e ho fatto molta fatica a tradurlo, ma non credo che questa fatica, o spero che questa fatica non abbia in qualche modo inficiato la qualità del lavoro. Ma a quale tuo autore ti senti maggiormente legata e perché? Sicuramente mi sento maggiormente legata a Alice Munro adesso, soprattutto per la quantità di lavoro che ho svolto sulla sua scrittura, perché ormai ho tradotto 12 raccolte, sono un totale di più di 3.000 pagine di scrittura, quindi la quantità fa una specie di voce interiore, la voce, almeno quella che io ho a un certo punto scelto per dar voce alla voce di Alice Munro. Quindi sicuramente l'autore a cui sono più legata in questo momento è Alice Munro, ma ce ne sono altri che invece ho tradotto molto meno e ai quali mi sento molto legata. Uno di questi è Ishiguro, che ho tradotto ovviamente molto meno, ho tradotto un paio di cose di Ishiguro, e ciò nonostante la sua lingua mi piace moltissimo lavorare a quella lingua, sempre tra l'imbarazzo e la perfezione, ecco, così definirei la lingua di Ishiguro. So che è una domanda banale e un pochino abusata, ma cosa si perde nella traduzione? Si perde tantissimo, si può perdere ovviamente ogni volta una cosa diversa, ogni giorno direi quasi qualcosa di diverso, dipende dalla pagina che sia davanti, dipende da dove si è nella vita, anche da dove è il traduttore nella vita, perché si perdono cose diverse. All'inizio di questo mio mestiere avevo un atteggiamento nei confronti della scrittura dell'altro diverso da quello che ho adesso, e quindi perdevo cose diverse, probabilmente ne guadagnavo delle altre. Ho imparato in tutti questi anni a fare la pace con il concetto di perdita e a sapere che là dentro a quelle perdite si muove la letteratura e vive la letteratura, lì, proprio lì dove si perde. Tu hai scritto che il traduttore turba il sonno della lingua. Ho trovato questa tua frase che mi ha colpito moltissimo. Lo credo che ti ha colpito, di Ezra Pound. È una bellissima citazione, forse non virgolettata, ma non posso certo dire che sia mia. Sì, turbare il sonno della lingua vuol dire andare là a scandagliare dove la nostra lingua, la lingua d'arrivo, sembra essersi impigrita. E sembra non contenere le cose che va cercando. In realtà ci sono tutte, a saperle svegliare, e certi traduttori, grandi traduttori, sanno risvegliarla con delicatezza e con stile, la propria lingua. Non si può volgere adeguatamente un testo se si è privi di orecchio musicale, io ne sono convinto. Il valore fonetico di vocaboli e preposizioni è uno strumento essenziale per lo scrittore, e il traduttore deve assecondarlo anche su questo piano. Ma quale musica vera e propria, accompagna le tue giornate di lavoro o comunque la tua vita? Allora, io ascolto poca musica, lavorando non ascolto musica, non posso, la musica mi distrae, perché non essendo un'esperta di musica, non riesco ad averla in sottofondo senza che mi risucchi, quindi non posso ascoltare musica. Devo dire che ogni interruzione del mio lavoro è scandito dalla radio. Io ascolto la radio, ascolto Rai 3, quindi ascolto Fahrenheit, ascolto quindi le proposte musicali che mi vengono fatte. Le mie scelte musicali esulano completamente dalla mia giornata di lavoro e sono comunque non da esperta, purtroppo. Abbiamo con noi anche oggi Angelo Fracchia di Strade, il sindacato dei traduttori editoriali. Oggi è il nostro ultimo incontro nell'ambito di questa trasmissione. Con cosa vogliamo chiudere? Penso che valga la pena citare intanto che cosa Strade offre ai suoi iscritti. Offre una consulenza legale di alto valore, di alta qualità, consulenza legale gratuita per gli iscritti sui contratti da firmare e anche sulla valutazione dei contratti già firmati, nonché delle condizioni particolari per eventuali contenziosi. Offre un servizio di assistenza fiscale, anche qui grazie, sono tutti iscritti che si mettono a disposizione, che fanno crescere la propria formazione dedicando mesi e tempo e denari per formarsi adeguatamente. E poi Strade offre anche una polizza particolare di assistenza sanitaria, la Elisabetta Sandri, che è un po' una novità nel campo anche italiano, infatti viene studiata anche da altri colleghi sindacalisti, perché la nostra è una categoria senza assicurazioni sanitarie. In caso di impossibilità a lavorare non abbiamo nulla, non abbiamo ovviamente pensione o altro, però soprattutto la impossibilità a lavorare per motivi di sanità sono particolarmente pesanti e abbiamo sottoscritto con Insieme Salute una polizza particolarmente interessante tagliata su di noi, tagliata su chi lavora di lavoro proprio da autonomo, però in realtà per altri e quindi senza troppa autonomia di lavoro, neanche di gestirsi tempi e flussi di lavori. Anche su questa polizza si possono avere informazioni naturalmente visitando il sito, che ripeterei anche per una seconda volta, anche se nelle puntate precedenti ne abbiamo già parlato. www.traduttoristrade.it. E adesso, come conviene in questi casi, si fa un bel appello a iscriversi. Sì, io veramente chiederei ai traduttori editoriali italiani di lanciarsi, perché gran parte di quello che abbiamo fatto con le nostre forze è stato possibile perché non eravamo pochissimi. Nonostante fossimo pochi, è un sindacato giovane, il 55% degli iscritti ha meno di 45 anni, è un sindacato che vive delle forze di chi c'è dentro, anche se lavora per il bene di tutta la categoria. Penso che sia un piccolo investimento, sono 50 euro all'anno la tessera, che però può veramente fruttare molto a noi e a chi verrà dopo di noi. Dopo aver ascoltato Angelo Fracchia, che ci ha raccontato alcuni aspetti forse poco conosciuti dell'attività di traduttore, torniamo a conversare con Susanna Basso. Cosa fa Susanna Basso quando non traduce? Quando non traduco, insegno. Insegno inglese presso il liceo Massimo D'Azeglio di Torino. E che tipo di insegnante è allora Susanna Basso? Questo ovviamente bisognerebbe chiederlo ai miei studenti e non a me, comunque posso provarci. Sono appassionata del mio lavoro, credo che i miei due mestieri, quello di insegnante e quello di traduttrice, spesso litighino, soprattutto per ragioni di tempo, ma credo anche che si debbano molto l'uno all'altro, si devono appunto, io tendo a essere una traduttrice solitaria e la scuola mi stana dalla mia solitudine, mi mette in contatto con molte persone giovani alle quali mi piace dedicare una parte della mia giornata di lavoro. Questo faccio. Io credo che il luogo dove viviamo contribuisca a far di noi ciò che siamo, che sia in qualche modo specchio della nostra interiorità. Tu sei nata e vivi a Torino, una delle capitali dell'editoria italiana, fra l'altro. Che rapporto hai con la tua città? Un rapporto che è molto cambiato nel corso del tempo. Credo di essere stata, come molte persone che conosco della mia generazione, una torinese insofferente di essere torinese negli anni della mia giovinezza. Credo di aver avuto voglia di sentirmi un po' più internazionale quando ero giovane. Credo di avere praticato un po' di questa vita internazionale, anche se molto modestamente, e poi di essere tornata e di, con l'invecchiamento, aver incominciato ad apprezzare sempre di più determinati ritmi che poi ho dentro, sono i miei, sono quelli di sempre, della mia famiglia. Quindi ho un buon rapporto, quanto poi alle occasioni intellettuali e editoriali in particolare, ho avuto l'enorme fortuna di approdare come traduttrice alla casa editrice Einaudi, che credo sia proprio stato, questo sì, un mio sogno di ragazza, proprio di ragazza, di studentessa del liceo. L'Einaudi era uno dei luoghi mitici del mio liceo, e quindi lavorare per Einaudi è sempre stato per me un grandissimo piacere. C'è stato un incontro con una persona, un luogo, uno scritto che ti ha cambiato la vita? Dal punto di vista del mio mestiere di traduttrice, sicuramente devo dire che l'incontro è stato quello con McEwan, perché nel 1987, mi pare, ho avuto occasione, in modo abbastanza casuale, insomma, di fare una prova di traduzione su The Child in Time, Bambini nel Tempo, di McEwan. McEwan aveva già una traduttrice, Stefania Bertola, quindi un'ottima traduttrice, che però nel frattempo si era dedicata anche ad altre cose, quindi cercavano una nuova traduttrice, un nuovo traduttore, e quella cosa sì, mi ha cambiato la vita, perché dall'incontro con McEwan e con quel libro sono approdata a scrittori e ad autori che sono sempre stati da allora di qualità eccellente. Quindi insomma, per un traduttore tradurre scrittori eccellenti è davvero, fa la differenza. Il traduttore e la traduttrice vivono gran parte del loro tempo nella Turris e Burnia del loro studio, vale un po' per tutti noi, ma credo che giunga anche lassù un eco del tempo sbandato, come cantava Ivano Fossati qualche anno fa, che stiamo vivendo. Come stai vivendo tu questi anni di crisi? Con un po' di ansia, ma sai, io la crisi la vivo a un punto della mia vita di traduttrice, di insegnante, che è già molto in là, quindi la vivo soprattutto come ansia, non tanto per il mio domani, per il quale vedo ogni tanto qualche tristezza, qualche ristrettezza, qualche limite in più rispetto ad anni in cui mi sembrava che ci fosse più entusiasmo e possibilità di esercitarlo, ma lo vivo soprattutto come ansia per chi sta arrivando nel mio mestiere o in altri mestieri. Questa, essendo anche madre, questa è in realtà la paura che turba di più la mia solitudine di traduttrice, perché il mio lavoro, per mio privilegio raggiunto per questioni di età, ha potuto continuare. Io non ho sentito grande crisi, per esempio, nelle proposte che mi sono state fatte, però la percepisco come qualcosa che riguarda tutto ciò che sta intorno a me. Per concludere questa nostra chiacchierata, mi piacerebbe sentire da te una frase che hai tradotto e che valga come simbolo o cifra del tuo modo di lavorare. Cosa ci proponi? Guarda, Vi propongo una frase che ho tradotto molto di recente e che mi ha molto colpito, perché è una frase di un breve testo di Julian Barnes. Si intitola Livelli di vita. No, faccio fatica a definirlo perché non è né un romanzo né un saggio né un memoir, è una cosa che sta a metà e a cavallo tra tutti questi generi letterari. La frase che vi propongo è l'incipit di questo testo, che in inglese suona così: You put together two things that have not been put together before. È una frase semplicissima che purtroppo, per chi deve tradurre questo testo, si ripete identica all'inizio dei tre capitoli, che sono i tre capitoli che formano tutto il libro. Questa frase si compone di 17 sillabe, di tutti monosillabi e di due soli polisillabi. Uno è together e l'altro è before. Tradurla apparentemente sembra di una semplicità estrema, eppure quello che mi è successo quando ho cominciato a tradurre, nonostante tutti gli anni di traduzione, ho tradotto questa frase e quando me la sono ritrovata fra le mani ho scoperto che era tutta sbagliata in italiano, perché in italiano suona: metti insieme due cose che non sono mai state messe insieme prima. Quello che viene dopo è: e il mondo cambia, and the world changes. Ecco, io sentivo che il mondo non cambiava in italiano, che a tradurlo così non, c'era qualcosa che proprio non funzionava, c'erano tutte queste sillabe, c'era una specie di soffocamento della leggerezza di questo incipit. E poi piano piano, come mi succede, è come se la frase, il ritmo della frase mi fosse entrato nella testa, e alla fine la soluzione che ho trovato, o che ha trovato me, è stato quello semplicemente di tradurre: metti insieme due cose che insieme non sono mai state e il mondo cambia. Sembra una cosa, la ragione per cui l'ho scelta è la sua assoluta semplicità, che però mi pare dia bene l'idea di quanto può essere difficile e quanto felice a un certo punto il lavoro del traduttore. Si mettono insieme due cose che insieme non sono mai state e il mondo cambia. Con le parole di Susanna Basso si conclude questo ciclo di incontri con i traduttori editoriali, che ringrazio per la disponibilità e per averci consentito di sbirciare nel loro mondo interiore. Da Massimo Ortelio, l'augurio di una buona domenica in compagnia dei programmi di Radio 3. In altre parole, la dolce vita del traduttore, di Massimo Ortelio. Regia di Ornella Bellucci, a cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.